like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Hey, hey, hey. Since the return of my stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Hey, settimane in classifica, 38 weeks, e ancora si trova al numero 25. Questo è veramente un grande hit per i Train, e già su Billboard Music Charts abbiamo fatto sentire il nuovo dai Train, Something More. Però rimaniamo a suonare questo bel pezzo, Drops of Jupiter, Tell Me. Allora ragazzi, sempre su The Billboard Hot 100 troviamo al numero 6, appena fuori dalla top 5, un bel pezzo che è in collaborazione con Ja Rule, e c'è la bella voce e anche il bel dietro di Jennifer Lopez. I'm real. Drive me wild, and I can't go on without you, girl. think about this relationship, and I wanna know, is it as good as it is? Cause we've been through the worst time and the best time, but it was our time, even if it was part time. Now they've been looking at me, smiling at me, laughing like we wasn't happy, but not knowing that we're growing and we're getting married. Hard loving, straight thugging, baby, I ain't doing this here for nothing. I'm here to get it popping, hopping, let's ride it in the bend, head blowing in the wind, sun glistening on my skin. Hey, I'm nasty, you know me, but you still be feeling you, baby. The way you walk, the way you move, the way you talk, the way you stare, the way you look, you style your hair. I live it to the limit and I love you. Now I can breathe again, baby, now I can breathe again. Now people screaming, what's the deal with you and so-and-so? I tell them it's my limits, but they don't hear me though. Cause I live my life to the limit and I love it. Now I can breathe again, baby, now I can breathe again. Tired of being alone. Yeah, yeah. Sick of arguing on the phone. Yeah, yeah. Why you telling all your friends? Yeah, yeah. But you don't understand. My love is on you. There she goes, al numero 6 on the Billboard Hot 100, Jennifer Lopez. E devo chiedere scusa che prima avevo detto c'è anche il dietro, cioè il culo di Jennifer Lopez su questo pezzo, perché sembra che Jennifer Lopez è molto arrabbiata della gente che parla del suo bel corpo. Dice, oh, io sono un artista e voglio essere rispettato per quello che so fare, non per il mio aspetto, e in futuro non mi vedrete più in foto con bikini. E infatti l'intervistatore gli ha chiesto, ma scusa, questo è perché sei sposato e tuo marito ti sta rompendo un po'. E lei ha detto, no, chiaramente il mio marito è un conservatore, non li va molto quando nei film devo baciare gli altri uomini, però lui non ha nulla a che vedere col mio cambio di immagine, anche se ovviamente non è completamente a posto. Posso immaginare se Jennifer Lopez fosse moglie mio. Comunque ragazzi, Billboard Music Charts abbiamo detto al numero 6 Jennifer Lopez, però al numero 3 troviamo Enrique Iglesias con Hero. Siamo anche arrivati al momento di Tricks and Tracks, la bella traduzione. Allora, di che sta parlando Enrique Iglesias in questo pezzo? Ascoltiamo subito. Billboard Music Chart. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. Lascia che io sia il tuo eroe. Balleresti se ti chiedessi di ballare? Corresti e senza mai guardare indietro? Piangeresti se mi vedessi piangere? Vuoi salvare la mia anima stanotte? Tremeresti se ti toccassi le labbra? Rideresti, oh ti prego dimmi questo, ora morresti per la persona che ami? Tienimi fra le tue braccia stanotte. I can be your hero, baby. Posso essere il tuo eroe, baby. Posso far sparire il dolore. Ti starò vicino per sempre. Tu sai come togliermi il respiro. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you rub me in? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. Giureresti che sarai mia per sempre? Mentiresti? Corresti a nasconderti? Ci sto troppo dentro. Ho perso la testa? Non mi interessa, sei qui stanotte. Io posso essere il tuo eroe, baby. Posso far sparire il dolore. Ti starò vicino per sempre e tu sai come togliermi il respiro. Club 91. Rimane sulla Billboard Hot 100, si trova al numero 44, Let Me Blow Your Mind, Gwen Stefani di No Doubt insieme ad Eve. Allora ragazzi, sembra che state telefonando per richiedere un brano, non avete lasciato il vostro nome al 081-549-9191, però nonostante questo possiamo accontentarvi e quindi arriverà subito dopo questo prossimo pezzo, però il nostro numero di sms è 335-537-9191. 91, quindi andiamo con Uncle Cracker and Follow Me e subito dopo si arriverà quello così stupido. Here's Uncle Cracker with Follow Me. You don't know how you met me, you don't know why you can't turn around and say goodbye. All you know is when I'm with you, I make you free and swim through your veins like a fish in the sea. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. I'm not worried about the ring you wear, 'cause as long as no one knows, then nobody can care. You're feeling guilty and I'm well aware, but you don't look ashamed and baby I'm not scared. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. Thank you.

Alcazar, all the way from Sweden, con questo Sexual Guarantee, il loro nuovo singolo. E noi le ricordiamo per il loro grande hit Crying at the Discotheque, che ci riporta all'estate di quest'anno. Però ragazzi, finalmente l'Inghilterra si sta svegliando, perché Crying at the Discotheque è appena entrato nel top 10 nella classifica inglese, e quindi per loro sarà un hit di Natale per riscaldare le cose in discoteca invernale. Allora, Billboard Music Charts, here's US3, You Can't Hold Me Down, un bel pezzo, Non Mi Potete Tenere Giù. Can a young man have fun anymore? Been to more places than you ever saw. Why you always wanna keep me poor? Can't my world be cooler than yours? Keep the smoke in between my jaws? Or is it my job to point out my flaws? Just because you got your mind on pause, cause I ain't got no time tonight for all the things that you say right. Like traffic lights and crowded trains. Tonight it just won't be the same. Around. You can't hold me down. Ain't gonna be pushed around. Why you always wanna try and stop me? I don't think you can really top me. Can't my car be quicker than yours? Or is it my job to always watch doors? Don't blame me for the way I live. My work is done, it's time to give. I don't think you should get all mad just because I wanna go so bad. You can sit down and let the world bring you down in that spiral world. You can penetrate the crust and rise above the eyes like us. Cause I ain't got no time tonight for all the things that just ain't right. Like traffic lights and crowded trains. Tonight it just won't be the same. I wear my hands so long. Can't my world be bigger than yours? Or is it my job to always break laws? Can't my talk be smoother than yours? Why you always wanna shut your doors? I ain't got no time for your wars. You don't have to worry about me no more. Cause I ain't got no time tonight for all the things that just ain't right. Like traffic lights and crowded trains. Tonight it just won't be the same. Billboard Music Chart. Yeah. Billboard Music Chart. New York. Billboard Music Chart. Yeah, yeah. Just the other day, I must confess, cause I've had about enough. I need your help, gotta make this here thing stop. Baby, I swear the truth about all the things we used to do. And if you thought you had me fooled, I'm telling you now, get you over. One for the money and the free rise, it's two for the lie that you did. decide, baby, I swear I'll tell the truth about all the things we used to do. And if you thought you had me fooled, I'm telling you, the rejection of the rule. Oh, baby. One for the money and the free rise. It's two for the lie that you One for the money and the free rise. It's two for the lie that you did not arise. Arise. Three for the cause you've been making. For Blu, loro si chiamano Blu, magari sono tifosi della squadra calcio Napoli, però non credo, visto che i ragazzi sono inglesi e praticamente dovevano suonare un concerto la settimana scorsa, ma hanno avuto grandi problemi a livello di trasporto. Hanno telefonato ad organizzatori a dire: oh, non possiamo venire, e gli organizzatori hanno detto: no problem ragazzi, con 5.000 sterline nostra ti prendiamo, ti affittiamo un aereo e così sicuramente potete suonare. E tutto è finito per bene, bravi i Blu. Ok, on the Billboard Music Charts at number 32, it's Craig David, Fill Me In. Here he is. As a wise man, I couldn't cut it as a poor man's skin. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me. Bottom of every bottle, these five words in my e sale un posizione da numero 5 a numero 4. Questi sono i Nickelback with How You Remind Me sui Billboard Hot 100 on the Billboard Music Charts. Allora ragazzi, siamo arrivati al momento di Now and Then. Torniamo ai tempi di Shine On You Crazy Diamond, il classico album di Pink Floyd, e troviamo il pezzo Wish You Were Here, però poi un versione del 2001 fatto da Wyclef Jean. Here we go. This for just any cover tune. I'ma take y'all to the dark side of the moon. Kicking in my mom's womb, this song was just a thought. A young refugee, labeled just come with a passport. Dad used to tell me about the American dream. My dream was waking up in the projects, a young teen. Listen to hip hop, my brother tuned me into rock. Put me up on Pink Floyd, a band from the British blocks. Billboard Music Chart. I just can't help believing when she smiles up soft and gentle with a trace of misty morning and a promise of tomorrow in her eyes. I just can't help believing when she's lying close beside me and my heart beats with the rhythm of her sighs. This time the girl is gonna stay. This time the girl. Well, I just can't help believing when she slips her hand in my hand and it feels so small and helpless that my fingers fold around it like a glove. Well, I just can't help believing when she's whispering her magic and her tears are shining on me, sweet with love. This time the girl is gonna stay. For more than just a day. Well, I just can't help believing when she slips her hand in my hand and it feels so small and helpless and my fingers fold around it like a glove. And her tears are shining on me, sweet with love. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay. For more than just a day. Elvis Presley, I just can't help believing. Allora, oggi è il 3 dicembre del 2001, torniamo indietro 33 anni al 3 dicembre 1968, è stato trasmesso in America il special su Elvis, titolato semplicemente Elvis, e ha avuto molto critical acclaim, che è piaciuto molto, e dicono che questo è stato il primo passo sul comeback di Elvis Presley, che è stato registrato in giugno Bruno, però non credo che avrà suonato questo pezzo I Just Can't Help Believing, siccome non è uscito fino al 1971. Comunque è un gran bel pezzo per aprire la nostra seconda ora di Billboard Music Charts. Allora, my name is Fergal Kavanagh, c'è Gino Palombo on controls. I nostri numeri sono telefono 081 549 9191 e il nostro numero di SMS per mandarci un messaggio 335 537 9191. Allora, appena annunciato che sarà in tour in America l'anno prossimo tra gennaio e aprile, vorrei esserci, però posso goderla on the radio. Here's Nelly Furtado. Well, I hate to say, but I've been going solo. You let me tell you how much on the radio, but now I'm just too busy for you, oh no. You let me tell you, see me on your TV. Well, if you're so low, but love it, why you acting? You say the things come to those away. I've been waiting a long time for it. Well, I never see a change without a fire. But from your mouth, I've seen a lot of burning. But underneath, I think it's a lot of yearning. Your face, the color change from green to yellow, to the point where you can't even say hello. You tell me, you'd kill me if I ever snob you out. That's what you expect from me, like that's what I'm about. I remember the day. Music chart. Yes. about to breathe. Leave your situations at the door. So when you step inside, jump on the floor. Your back and get your body bumping. I tell you, leave your situations out the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it. New York Billboard Music Chart. Kravitz, Stillness of Heart, il suo nuovo singolo preso dall'album Lenny, che gli sta avendo successo. E se volete un bel regalino di Natale, comprate questo disco da Lenny. Allora ragazzi, siamo arrivati al momento di il nostro album della settimana. E già vi ho proposto la settimana scorsa, già vi ho annunciato che il nostro album questa settimana sarebbe di Björk, quella ragazzina islandese. Allora vi voglio anche ricordare che proporvi un album della vostra gradita ascolto, potete telefonarci alle 081 549 9191, oppure mandarci un bel sms alla 335 537 9191. Ok, Björk ha suonato ultimamente a Roma, tutti quanti che ci sono andato hanno detto che era un concerto meraviglioso, e stava lì per promuovere questo nuovo album suo Vespertine. E stasera iniziamo col primo singolo da quel disco, questo si intitola Hidden Place. Thank you. Billboard Music Chart. Bees with Falling, un grande successo per lei. Ok, un grande successo per Madonna pure, con sue Greatest Hits Volume 2, che si trova in capoclassifica in Inghilterra. E infatti lei già ha iniziato a lavorare sul suo nuovo album, e perciò non ci sono pezzi nuovi su questo hit album suo. Infatti ha deciso di registrare tutti i pezzi nuovi per il nuovo album. Comunque noi torniamo a non molto fa, infatti l'album Music, questo è What It Feels Like for a Girl, un bel remix di Tracy Young. Billboard Music Chart. Billboard Music Chart. New York. Billboard Music Chart. Dovete vedere Gino che sta facendo le sue impressioni di un cowboy qua dietro del vetro, c'è pure il pistole fumante, cioè quello che dopo aver sparato, bello, era pure a fare il cavallo, grande che sei Gino. Questi erano The Soggy Bottom Boys, taken from the soundtrack of Oh Brother Where Art Thou, cioè fratello dove sei, il che si trova al numero uno nella Billboard Top Soundtracks, cioè i colonne sonore venduti in America, 12 settimane in quel posizione. Complimenti. Here's Garbage with Cherry Lips. Go, baby, go. She didn't care to hang around. So when the sheriff New York Billboard Music Chart. There's too many of you crying. Oh, brother, brother, brother. There's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some love here to stay. And war is not the answer, for only love can conquer me. You know we've got to find a way to bring some loving to stay. Picket lines won't block our way. Versione di What's Going On, preso dal singolo dove c'è gli All Star Lineup che conosciamo bene. Questo è Bono insieme a Chris Martin, il cantante di Coldplay, quindi il cantante degli U2 insieme al cantante di Coldplay, per una versione molto bella di What's Going On, che purtroppo sta scivolando sulla classifica. Adesso si trova al numero 95 su The Hot 100. E vi ricordo che sabato scorso è stato World AIDS Day, da dove andrà metà dei soldi che fanno da questo singolo, e quindi un ottimo causa. Allora ragazzi, siamo arrivati al momento della nostra proposta, quella che stiamo ascoltando a casa. Allora, prima di questo devo salutare un ascoltatore, o meglio un'ascoltatrice. Poverina, sta a casa con la febbre a 40 e domani pure ha un esame da fare, e quindi che guai proprio. Allora Manuela, in bocca al lupo domani e dormi bene stasera. Torniamo con questa proposta. Allora, sono i Skunk Anansi, sono sciolti purtroppo, ma questo è un gran bel pezzo, un versione acustico esclusivo per noi, si intitola Follow Me Down. Chart. New York Billboard Music Chart. Stop that train, chiusura. Allora ragazzi, abbiamo ascoltato due ore of the best music from the Billboard Music Charts, ma non solo i Billboard Music Charts di oggi, ma anche un po' di ieri, e torniamo domani alle ore 21 per le stesse cose. Allora, un bel old per aprire il programma, poi il nostro Trick and Tracks, dove ascoltiamo un pezzo e con un bel traduzione pure. C'è Gino Palombo che sta ballando a questo, devi ammetterlo Gino, stai imparando la lingua così, vero? Ecco, si dice di sì, dimmi yes, yes, così che dice yes, complimenti. Ok ragazzi, vi ricordo che per i vostri suggerimenti ci potete telefonare al 081 549 9191, oppure potete mandare un sms, vi do il numero, però non lo mandate adesso perché sto per spegnere il telefonino, 335 537 9191. Se mandate un messaggio, Pina la troverà domani alle ore 7, quindi magari mandi un bel messaggio, anche un massaggio a Pino, non gli dispiacerebbe a quell'ora di mattina, immagino. Comunque ragazzi, sto dando i numeri, ho già dato i numeri, mi sembra che sia veramente il tempo di andare. Ok, vi ringrazio, grazie a Gino Palombo, il nostro controllatore, il nostro DJ più potente del mondo, grazie a voi ascoltatori di Radio Club 91, sì, questo vuol dire tu e tu e tu, e dai anche